Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Pasadena, Los Angeles, 17 luglio 1994. Ci troviamo al Rose Bowl Stadium, che è una sorta di monumento nazionale. Di solito qui si disputano le partite della NCAA, la Lega Universitaria di Football Americano. Qui si sono svolti anche straordinari concerti di band come gli U2 o i Depeche Mode. In questa torrida serata estiva del 1994, però, protagonista è lo sport meno amato dagli americani, il calcio, soccer, come lo chiamano loro. C'è la finale dei mondiali. I mondiali americani del 1994 sono stati organizzati qui proprio per tentare di lanciare nel paese dello zio Sam lo sport più amato in Europa. Ci hanno già provato gli americani. Negli anni 70 l'esperimento dei Cosmos aveva portato a giocare sotto la Statua della Libertà alcuni dei più grandi calciatori del mondo, sebbene in fase calante. Franz Beckenbauer, Giorgio Chinaglia, Johan Neeskens e soprattutto il grande Pelé. Ma dopo il fallimento della mitica squadra newyorkese, il calcio torna nel dimenticatoio. La FIFA, Federazione Internazionale del Calcio, prova a rilanciare il soccer a stelle e strisce e organizza lì la 15ª edizione del Mondiale. All'atto conclusivo arrivano le due squadre che si sono aggiudicate più volte il prestigioso torneo. L'Italia da una parte, il Brasile dall'altra. Le due squadre l'hanno vinto tre volte. Chi vincerà stasera prenderà la palma di squadra più titolata. I nostri due personaggi di oggi sono due sportivi i cui destini si intrecciano in quella finale losangelina. O meglio, le loro vite si sono incontrate e incrociate prima. Quello però è l'appuntamento col destino per entrambi. Infatti per entrambi la vita avrà un sapore diverso da quella notte di mezza estate. Scopriamoli insieme, iniziando da un signore con pochi capelli che guida l'Italia dalla panchina. Iniziando proprio dal commissario tecnico Arrigo Sacchi da Fusignano. Arrigo Sacchi. Quando si gioca così tanto all'attacco è chiaro che noi sull'1-0 lei vedeva, continuavamo a attaccare, abbiamo rischiato, ma alla fine siamo stati anche premiati. È una tipica dichiarazione di Arrigo Sacchi. Risale alla stagione 1987-1988, quella decisiva per l'allenatore romagnolo, quella che lo proietta nell'Olimpo del calcio come il profeta di un nuovo modo offensivo, spettacolare, di intendere il calcio. Arrigo Sacchi nasce a Fusignano, in provincia di Ravenna, il 1 aprile 1946. Contrariamente alla maggior parte degli allenatori di successo, Sacchi non ha una carriera da calciatore professionista. Gioca per passione, insieme agli amici e in qualche squadra di dilettanti. Circolano voci leggendarie sulla precocità del genio calcistico dell'allenatore romagnolo. C'è chi dice di ricordarselo all'età di 7 anni, mentre discute animatamente con competenza di tattica con degli adulti. La passione per il calcio lo spinge a diventare allenatore nel 1977. Guida le giovanili del Cesena con alterni risultati. Nel 1982 Arrigo vede l'Italia di Enzo Bearzot laurearsi campione del mondo in Spagna. E anche lui ottiene la sua vittoria. Si laurea a Coverciano, ottiene il patentino da allenatore. Si mette ufficialmente sulla piazza alla ricerca di una squadra che voglia sperimentare con questo giovane allenatore delle idee innovative. Idee su cui Arrigo si confronta con un altro allenatore che si diploma a Coverciano in quell'anno e che sarà un altro profeta del calcio offensivo, Zdenek Zeman. Nel 1982 guida il Rimini Calcio in Serie C1. È la sua prima esperienza tra i professionisti. È l'inizio della sua storia. I'm the leader of the gang. Nella stagione successiva, 1988-89, il Milan di Sacchi tenta la scalata all'Europa. L'obiettivo principale è la Coppa dei Campioni. Berlusconi regala a Sacchi il terzo olandese dopo Ruud Gullit e Marco van Basten. Si tratta di Franklin Rijkaard, fenomenale centrocampista. Esplode Paolo Maldini, che a soli 20 anni diventa il terzino sinistro più forte del mondo. E là davanti proprio van Basten inizia a segnare e non si ferma più. In semifinale la Sinfonia di Sacchi brutalizza il grande Real Madrid. Nel mitico Santiago Bernabéu all'andata i rossoneri pareggiano 1-1, ma giocano un calcio seducente e irresistibile. Al ritorno a San Siro ne fanno 5. L'inserimento da quindi ad Ancelotti, destro, gol! Grandissimo gol! La finale si giocherà a Barcellona contro i modesti rumeni dello Steaua Bucarest. È il 24 maggio 1989. Arrigo Sacchi entra nella storia. Colombo largo per Sassotti, arriva Sassotti sul quale gioca un coreano, palla fuori ancora per Colombo, sinistro di Colombo, respinge il portiere, Bambescu, mischia, Gullit, gol di Gullit, tira di vantaggio al 31 al 17esimo del primo tempo, Gullit porta il vantaggio. Il mago di Fusignano si porterà a casa due coppe campioni consecutive. Anche nella stagione 1989-90 il Milan va sul tetto d'Europa. Non solo, i rossoneri vincono anche due coppe intercontinentali, due supercoppe europee. Sfiorano lo scudetto 1990, perdendolo solo all'ultima giornata in una controversa partita a Verona. L'avventura di Sacchi al Milan si conclude nel 1991, quando qualcosa si rompe nel rapporto tra lui e la squadra. Uno dei momenti più bassi, la brutta figura di Marsiglia. Il Milan campione d'Europa gioca una difficile partita a Marsiglia nei quarti di finale. È sotto quando nei minuti di recupero, a partita ormai decisa, si fulminano alcune luci di un riflettore dello stadio Velodrome. Adriano Galliani, fiutando la possibilità di una vittoria a tavolino, ritira la squadra nonostante non ci sia alcun problema di visibilità. Il Milan viene giustamente squalificato dalle competizioni internazionali. Sacchi è avvilito. A fine stagione, anche per qualche problema di incompatibilità con la superstar rossonera Marco van Basten, Sacchi viene sostituito da Fabio Capello. Rimane senza panchina per qualche mese. Quando l'Italia di Azeglio Vicini fallisce la qualificazione all'Europeo del 92, la federazione decide di voltare pagina, di cercare di costruire una nuova nazionale spettacolare e accattivante. E chiama lui il mago di Fusignano. Un cambiamento di prospettiva sottolineato anche dal presidente di Lega, Antonio Matarrese. Siamo passati da uno spirito, diciamo, familiaristico a uno spirito di, diciamo, di un'azienda industriale. Dal centrocampista azzurro Demetrio Albertini. Sacchi ha cambiato il cercare di riorganizzare una nazionale prendendo magari come modello una squadra di calcio, un club. Che in questo caso l'inizio non è dei migliori. Gli azzurri giocano la partita d'esordio delle qualificazioni in casa con la Svizzera e fanno una figura pessima sotto 2-0 per gran parte del match a causa di due papere del portiere Luca Marchegiani. Gli azzurri rimontano grazie a un gol negli ultimi minuti del nostro secondo personaggio di oggi. Arrigo Sacchi, infatti, costruisce il suo primo biennio intorno al rapporto controverso con quello che indiscutibilmente è il più forte giocatore italiano. Non può più contare sugli olandesi, ma trova questo talento cristallino e puro nel momento più alto della sua carriera. I loro destini si legano, si intrecciano, si aggrappano l'uno all'altro fino a quella finale di Pasadena da cui abbiamo iniziato la nostra storia. Il nome di questo campione, naturalmente, è Roberto Baggio. Roberto Baggio. Sei mai stato sulla cresta di un'onda? L'equilibrio in bilico? E la schiuma che ti circonda? Ti senti così piccolo? I pesci ti aspettano sul fondo, gabbiani Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati siamo partiti da Los Angeles, ma non da Hollywood, da una partita dei Los Angeles Lakers o da un'assolata spiaggia californiana. Siamo partiti da uno stadio. Uno stadio in cui di solito si giocano partite di football americano. Siamo però nel 1994, il 17 luglio del 94, e si sta per giocare la finale dei mondiali di calcio. Di fronte, Italia e Brasile. L'Italia è stata trascinata qui da due uomini, il commissario tecnico Arrigo Sacchi e il suo campione, Roberto Baggio. Andiamo a conoscere meglio il numero 10 degli azzurri. Per capire chi sia Roberto Baggio, iniziamo con un po' di dati. La rivista World Soccer, il più importante magazine di calcio del mondo, ha pubblicato una classifica dei migliori calciatori del XX secolo. Baggio è il primo italiano al 16° posto. Quando niente meno che Pelé nel 2004 viene chiamato dalla FIFA a stilare la lista dei 100 migliori giocatori in attività, Baggio, che è a fine carriera, viene prontamente inserito. Ha segnato 205 gol in Serie A, 27 reti in nazionale ed è l'unico italiano ad avere segnato in 3 mondiali consecutivi. Roberto Baggio nasce a Caldogno, in Veneto, vicino a Vicenza, il 18 febbraio 1967. È il 6° di 8 figli. Come molti campioni, mette in luce il suo talento fin da giovanissimo, una precocità che gli permette di esordire tra i professionisti a soli 16 anni. È il 1983 e Baggio gioca nel Vicenza. Nel 1984-85, a 17 anni, è titolare. Gioca 29 partite e segna 12 gol. Il suo destino e quello di Arrigo Sacchi si incrociano una prima volta. E il 5 maggio si affrontano il Vicenza di Baggio e il Rimini, allenato proprio da Arrigo Sacchi. Alla fine del secondo tempo, in un contrasto, il ginocchio del fuoriclasse fa una torsione anomala. Saltano legamento crociato anteriore, capsula, menisco e legamento collaterale. La sua carriera è già fortemente a rischio. Prendono corpo i problemi alle articolazioni che lo tormenteranno per tutta la vita. Spesso questi momenti di crisi e di incertezza nella vita portano allo sconforto e allo smarrimento, soprattutto quando a viverli è un ragazzo che ha appena compiuto 18 anni. In questo periodo Baggio si avvicina alla fede buddista, un elemento che diventerà presto un punto caratterizzante della sua personalità. Baggio si riprende dall'infortunio, cambia squadra. Ad acquistarlo è la Fiorentina. È il 1986 e il campione veneto, a soli 19 anni, diventa subito un idolo a Firenze. Vive 4 stagioni incredibili. Nel 1987 un altro contatto con Arrigo Sacchi. Il tecnico di Fusignano è appena arrivato sulla panchina del Milan e gioca la sua prima partita a San Siro. L'avversario? La Fiorentina di Baggio. Il campione viola mette in ginocchio da solo la squadra di Sacchi. Fa 2 gol, uno straordinario, partendo palla al piede da centrocampo e incrina le certezze di Sacchi. Soprattutto la stagione 89-90, quella prima del Mondiale, è davvero straordinaria per Baggio. È tornato al pieno dell'efficienza fisica, è incontenibile. Il pubblico di Firenze sogna un futuro di trionfi. I dirigenti viola, però, i Pontello, sognano di riempirsi il portafoglio. Iniziarono a uscire un sacco di voci sui giornali dove mi davano per sicuro la Juve. Io non sapevo assolutamente niente di questo. Ovviamente quando mi chiedevano dicevo no, io voglio rimanere qua, non so niente. Nell'estate del Mondiale Baggio viene ceduto alla Juve. A Firenze si scatena la rivolta. 15 arresti, 5 feriti, 36 denunce, 54 fermati. Sembra un bollettino di guerra, invece è solo l'affetto dei tifosi viola che si trasforma in rabbia quando il loro idolo passa alla squadra più odiata, quella bianconera. I sostenitori della Fiorentina raggiungono anche il ritiro premondiale della nazionale a Coverciano, come racconta il commissario tecnico Azeglio Vecini. I tifosi della Fiorentina veramente disturbati, io chiusi naturalmente con dispiacere di punire anche quelli che non volevano affatto, volevano solo vedere gli allenamenti della nazionale, e si fece poi il proseguo del raduno a porte chiuse. Roberto Baggio, appena trasferitosi alla Juventus, si prepara a vivere il suo primo mondiale, quello di Italia 90. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverle. Baggio esordisce nel Mondiale il 19 giugno del 1990. Con la sua classe e la sua rapidità, semina il panico tra i difensori cechi e si impone subito come la giovanissima stella del Mondiale. Davanti al televisore, mamma Matilde ricorda l'emozione dell'incredibile gol con cui suo figlio Roberto sigla il 2-0 per l'Italia. Triangolazione, Baggio, Baggio che converge, Baggio, Baggio, Baggio, finta di Baggio, tiro, grandissimo gol di Baggio! Il modo che lui si è buttato proprio, io l'ho visto con le lacrime agli occhi, come se fosse liberato, non so, qualcosa da dentro proprio. A me quel gol è il gol che mi è rimasto più nel cuore. Sono incredibile, inspiegabile, anche perché comunque era la mia prima partita e fare gol, perché noi se non sbaglio vincevamo 1-0, non era ancora assicurata la vittoria. Baggio e Schillaci trascinano l'Italia in semifinale contro l'Argentina di Maradona. Qui Roberto è vittima di una delle inspiegabili scelte dei vari allenatori con cui si troverà ad avere a che fare. Vicini lo lascia fuori. Lo mette solo a 17 minuti dalla fine ed è comunque l'azzurro più pericoloso. Ma l'Italia perde ed esce dal Mondiale. Nelle stagioni juventine Baggio trova la consacrazione a livello mondiale. Vince uno scudetto, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e soprattutto il pallone d'oro. Dal 1992 diventa il leader della nazionale, la nazionale guidata da Arrigo Sacchi. Nelle qualificazioni al mondiale americano del 1994 Baggio diventa titolare inamovibile. Sacchi lo considera un patrimonio del calcio italiano. Nel 1993 Roberto è vittima di uno dei soliti problemi alle ginocchia. Non molla però, recupera in tempo e Sacchi, con cui il destino di Roberto si è già intrecciato più volte, punta tutto su di lui per il mondiale americano. La strada verso Pasadena e verso la finale è lunga. La ripercorreremo insieme, tra poco. Dragons were smoked, bumblebees were stinging us. I was sued to be crazy. Eat, drink, and be merry. For tomorrow we'll die. Eat, drink, and be merry. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati siamo nel 1994, ai mondiali di calcio americani. Qui si intrecciano le vicende sportive di Roberto Baggio, il fuoriclasse degli azzurri, e di Arrigo Sacchi, commissario tecnico della nazionale. Le loro vite si sono sfiorate altre volte. Quando Baggio rimedia il primo grave infortunio della sua carriera nel 1985, sulla panchina della squadra avversaria siede Arrigo Sacchi. Quando Arrigo fa il suo esordio a San Siro con il Milan nel 1987, Baggio con la sua Fiorentina lo castiga. Dal 1992 sposano lo stesso progetto, portare l'Italia in cima al mondo. Il 18 giugno 1994 inizia il loro percorso contro l'Eire. In un clamore assordante fanno il loro ingresso in campo al Giant Stadium le formazioni di Italia e di Eire che stanno per dare inizio alla loro partita d'esordio qui ai mondiali americani. La nostra nazionale gioca a New York. In un caldo torrido, per Sacchi, Baggio e gli azzurri, l'inizio è subito in salita. Attenzione, riconquista il pallone e segna per l'Irlanda Houghton. È stato un cross, noi l'abbiamo respinta, è arrivato questo giocatore che ha tirato da fuori aria. Io ero convinto di essere più verso la linea di porta, invece ero molto più avanti, la palla mi fece un pallonetto, fece un errore di valutazione. La seconda partita è decisiva. Gli azzurri devono vincere. Avversari i norvegesi. La partita passa alla storia soprattutto per un siparietto proprio tra Arrigo Sacchi e Roberto Baggio. Attenzione! Troviamo la nostra difesa impreparata e Pagliuca. Dopo soli 15 minuti Pagliuca, per rimediare a un errore della difesa, esce a valanga fuori dall'area. Funzionò male un'alzata difensiva, sbagliamo il fuorigioco, un giocatore del Norvegia si presenta davanti a me, io sono uscito fuori area, lui calciò. Pagliuk viene espulso. Sa che inserisce Marchegiani e deve togliere un giocatore di movimento. La scelta ricade su Baggio. Il codino è incredulo. Si porta il dito alla tempia e consegna un labiale inequivocabile alle telecamere. Questo è matto, dice. Esce Roberto Baggio. Se vedete che Roberto Baggio sta dicendo, chi io? Non se l'aspettava nemmeno lui. Ma sa chi ha ragione. L'Italia in 10 resiste agli assalti dei giganti norvegesi e blinda la porta. Un altro Baggio, Dino, segna. Gli azzurri vincono nella sfortunata serata dell'infortunio a Franco Baresi, che lascia il campo a causa della rottura del menisco. Nella terza partita del girone, l'Italia pareggia 1-1 con il Messico. Passa il turno, ma per il rotto della cuffia, ripescata come migliore terza. Piovono le critiche su Sacchi, che deve difendersi. In queste tre partite, pur giocando contro avversari forti, io credo che l'Italia non abbia mai sfigurato, anzi, a volte ha dovuto anche così sconfiggere una certa sfortuna. Agli ottavi gli azzurri affrontano la Nigeria, la squadra più in forma del mondiale. È un sorteggio infelice. L'Italia sembra inoltre orfana del suo campione, Roberto Baggio, che non brilla e non riesce a sbloccarsi. Contro la squadra africana l'Italia va subito sotto. Alta! Il pallone in gol! Palla in gol, errore dei nostri difensori. E fino a 10 minuti dalla fine sembra spacciata. Inoltre viene espulso Zola per una decisione assurda dell'arbitro. Siamo anche in 10, come ricorda Demetrio Albertini. Veramente è incredibile. Ancora adesso, se uno lo rivede, capisce che è un errore incredibile. L'Italia avvicina all'eliminazione, come ricorda Pagliuca. Mancava 5 minuti dalla fine, ero già lì che pensavo dove andare in vacanza, cosa fare, con chi andare. E Sacchi è a un passo dall'esonero. Chi lo salva? Naturalmente Roberto Baggio. Ancora una iniziativa, attenzione, la palla è per Baggio. Baggio riceve palla in mezzo all'area da Roberto Mussi e si sveglia dal suo torpore con un rasoterra imparabile a un minuto dalla fine. L'Italia torna in gioco, Sacchi è salvo, si va ai supplementari e ormai Roberto è scatenato. È lui a siglare il 2-1 su rigore, si va ai quarti. A Boston c'è il 100% di umidità. Oltre al caldo, gli azzurri devono piegare le furie rosse, la Spagna. Ma Sacchi ha un'arma in più rispetto alle partite precedenti, un Baggio in stato di grazia. La squadra si muove per la prima volta come Sacchi chiede, ispirata dalle invenzioni del codino. Il primo gol arriva dall'altro Baggio, Dino. Poi l'inserimento per Dino Baggio, che è un buon tiratore, parte il suo tiro ed è gol! Grandissimo gol di Dino Baggio! Il pareggio della Spagna arriva su un'incredibile autorete. A rimediare ci pensa Roberto. Roberto Baggio salta e segna! E segna Roberto! E segna! L'Italia sogna, si va in semifinale. L'avversario è abbordabile, la Bulgaria di Stoichkov. Il primo tempo è perfetto. L'Italia gioca con fluidità straordinaria e Baggio finalizza. Con una doppietta mette al sicuro la finale, come ricorda Albertini. Primo tempo di quella partita veramente giocammo per chiudere la partita perché volevamo andare in finale. Una partita perfetta viene macchiata dalla sfortuna. Nel secondo tempo Baggio si stira ed esce. In un'intervista rilasciata il giorno prima della finale emerge tutta la sua preoccupazione. Non sapevo neanche io dire benissimo come sto. Adesso abbiamo 24 ore e fino a domani è chiaro che cerchiamo di fare il massimo con il mio fisioterapista. Disponibile comunque a rischiare tutto, anche qualcosa di più. Anche quello sì. L'importante è che però possa essere in una condizione accettabile perché mettere in difficoltà la mia squadra. Siamo tornati a Pasadena, dove la nostra storia si era aperta. Siamo tornati al 17 luglio 1994. Ora sappiamo che il destino di Sacchi e Baggio, uniti nel tentativo di vincere un mondiale che consacrerebbe le loro carriere, è appeso a un filo. Appeso alla cattiva sorte che impedisce al Divin Codino di presentarsi in forma alla finale col Brasile. Che Baggio gioca, anche se non è in condizione. Arrigo non riesce a lasciarlo fuori, ma è sottotono, non crea, non inventa. Il Brasile di Bebeto e Romario, per nostra fortuna, non graffia. La partita sotto gli occhi di tutto il mondo è orribile. Si va ai supplementari, poi ai rigori. Ai calci di rigore. Il primo degli azzurri a sbagliare è Franco Baresi, tornato in campo a tempo record dopo l'infortunio al ginocchio. Siccome il destino è un regista eccezionale, il rigore decisivo, quello che può tenere in vita gli azzurri, capita sul piede di Roberto Baggio. Abbiamo ancora una tenue speranza. Roberto Baggio batterà il nostro ultimo tiro dal dischetto. Pagliuca conosce bene il modo di tirare i rigori di Roberto. Baggio di solito i rigori tirava bassi, a terra. Sono pochi secondi, ma durano un'eternità. Il campionato del mondo è finito, lo vince il Brasile. Il rigore di Roberto va alle stelle e con quel pallone il mondiale, ma non solo. In due grandi carriere come quelle di Baggio e di Sacchi, quello è l'attimo cristallizzato di ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Il trionfo mondiale, la storia, la gloria. Invece, dopo quel rigore inizia per entrambi il declino, lento e provvisorio per Baggio, che sconta l'errore di Pasadena per qualche anno, quando la Juve lo fa fuori e prima il Milan e poi l'Inter lo maltrattano immeritatamente, facendolo giocare poco. Poi la resurrezione, prima a Bologna e poi a Brescia, dove Baggio chiude la carriera da protagonista. Sacchi non lo convoca più nei due anni successivi. Qualcosa tra loro si è rotto. Ma il tecnico di Fusignano va incontro al naufragio europeo del 1996 e viene esonerato. Tenta di rilanciarsi a Madrid, ma senza successo, e smette di allenare. Il loro incrocio si è consumato in quell'attimo di Pasadena, in quel sipario calato su un sogno mondiale che per entrambi non tornerà più. Il capitan della compagnia sta piangendo perché ha sbagliato. Perché ha sbagliato? Si emoziona. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.